Buonasera, buona domenica e ben ritrovati su Lesto Morrock. Come spesso capita, sono un attimo in ansia tutte le volte che devo far partire anche la diretta di Instagram, nonostante quella della radio sia estremamente facile oramai, perché sono qua da 5-6 anni bene o male, quindi bene o male sono abbastanza skillato in questo più o meno, a parte qualche magari problema tecnico che può succedere all'ultimo, però il discorso tecnologico mi rimane sempre un po' oscuro perché sono cose che non dipendono purtroppo da me. Sto parlando anche di questo perché, come avrete visto sicuramente dai vari social o comunque dalle varie ricondivisioni che ci sono state, un'altra intervista, se non sbaglio questa dovrebbe essere tipo la quarta di fila che vado a fare, terza o quarta più o meno che vado a fare di fila, e quindi sono sempre in compagnia di qualcuno. In questa volta ho un doppio argomento con la persona che andrò ad introdurvi tra poco, doppio argomento che andremo a esporre pian piano insieme, e quindi di conseguenza andiamo ad introdurre per l'ennesima volta, perché anche lui è quasi un veterano di Lestromo Rock, venuto diverse volte qui in trasmissione per i vari progetti, ma di conseguenza ciao Andre e buonasera e come stai? Sì, bentrovati, grazie Dani ancora una volta per l'ospitalità, il nostro amichevole Andrea Rock di quartiere per servirti. Oh, fantastico, questa introduzione alla Spider-Man è sempre ormai un marchio di fabbrica, direi, no? Assolutamente, fa parte un po' del mio substrato, del mio vissuto. Benissimo. Dicevo, anche da parte mia, come sai, è sempre un piacere averti qua in trasmissione per andare a parlare dei vari progetti che... E ritornati, che continuano, quindi ce n'è sempre da parlare. Prima di fare ciò, dato che stavolta mi sono documentato sul discorso, una domanda che ti avevo fatto di introduzione che vado sempre a fare per il discorso dei NoFX, dato che sono andato a riascoltarmi la puntata precedente e mi sono ricordato effettivamente chi ti avevo fatto effettivamente il discorso cosa sono per te NoFX, giustamente non andiamo a fare la sorta di teatrino te l'ho fatto, non te l'ho fatto, riproponiamola. So perfettamente che non te l'ho fatta, se qualcuno volesse risentirsi con l'intervista sull'archive.org e sulle varie link in bio di Lestromo Rock su Instagram ci sono, quindi andate a vedervi dov'è. Ho un'altra domanda introduttiva, è un argomento che è fuori praticamente da un paio di settimane, questo licenziamento completamente a caso di Josh Freese da parte dei Foo Fighters. Cosa, come l'hai vissuta, come la pensi, se sai qualche altra novità in più? Ma allora, non ne so molto, anche per me è arrivato un po' come un fulmine a ciel sereno, non soltanto per me, per lo stesso Josh Freese, anche lui se l'è vissuta abbastanza male da quello che abbiamo letto sui social, però credo che adesso sia già in giro con un'altra band, con i Wobbs, può essere che sia con loro, quindi vabbè, è un batterista con una qualità immensa, quindi non farà fatica a rimanere appunto impegnato con qualche band. I Foo Fighters cosa ne sappiamo, che cosa gli giri per la testa? Per il momento personalmente è difficilissimo per Dave Grohl, e quindi l'opinione pubblica anche nei confronti dello zio del rock, perché era diventato un po' lo zio di tutti, no? Sempre proattivo, sempre ci sono per tutti, sempre le collaborazioni, produco, suono tutto, faccio dei grandi show e poi faccio questo inciampo nel privato che purtroppo ovviamente si ripercuote anche un po' nel pubblico. E questa cosa, secondo me, qualche equilibrio l'ha destabilizzato. Non voglio pensare che il licenziamento di Josh Freese sia legato alle questioni personali di Dave Grohl, ci sarà qualcosa in più sotto, ma dovremo aspettare per capirci qualcosa di più. Sempre ammesso che poi salti fuori effettivamente cosa è successo, cosa che raramente la verità salta effettivamente fuori. Sono quei comunicati stampa che dicono abbiamo preso altre direzioni e quant'altro per dare una sorta di contentino ai fan, per dare una sorta di spiegazione. Di solito succede così per le grandissime band, poi se effettivamente salterà fuori la verità, tanto meglio, vedremo, aspetteremo. Quindi andati a rompere il ghiaccio anche con Andrea Rock. Inizio anche brevemente un attimo con le introduzioni della playlist per quello che ci andremo ad ascoltare, oltre quello che andremo a parlare del doppio argomento che dicevo prima, una parte dei Roscos che sono ritornati dopo diversi anni pausa, modo di dire, poi dopo mi dirai tu meglio, e poi questo la quarta compilation del progetto PGA di questo collettivo progetto Benefit, che anche qui andrai un attimo a spiegare meglio tu, e rientriamo dopo le due chiacchiere ovviamente doverose che abbiamo fatto nel fuori onda da una parte, ma rimane sempre un'onda, poi dopo sempre solito discorso diciamo, ma andiamo effettivamente a parlare del doppio argomento, una prima parte o una buona parte dedicata al questo ritorno di Roscos, questo il progetto metal punk anime manga sostanzialmente, perché sonorità un po' più pesanti rispetto a quello che proponi con i Rebel Poets e appunto con il PGA, a tematiche manga anime, quindi un po' come mai questo ritorno dopo praticamente una quindicina d'anni e come mai le tematiche anima. Noi nasciamo nel 2003 come gruppo, nel momento in cui esplodono gli EFI, Avenged Sevenfold, poco dopo Bullet for My Valentine, My Chemical Romance, poi nel 2006 con The Black Parade, e quindi in qualche modo c'è quel nero diffuso che è un po' il nero dei Misfits, un po' il nero della Black Parade, un po' il nero dei Avenged Sevenfold, un po' il nero degli EFI, tutto molto misto, tutto molto teatrale da un certo punto di vista, e ci innamoriamo di quei dischi, scegliamo di sposare un po' quelle sonorità. Parte del gruppo viene proprio dal metal più classico, Iron Maiden, eccetera. Il mio bassista viene dai Cramps, che è forse il suo gruppo preferito. Appunto, gli EFI erano forse la band che in quel periodo ci metteva tutti d'accordo con quel disco capolavoro che era Sing the Sorrow, appunto del 2003, prodotto da Rick Rubin. Scegliamo di raccontare una serie di tematiche molto importanti sotto il profilo sociale, utilizzando come metafora il mondo dei manga o degli anime. Quindi quasi tutte le nostre canzoni, anzi direi praticamente tutte, hanno una seconda lettura sociale. L'ultima che noi abbiamo pubblicato, che si chiama The Mortal Path to the Seventh Sense, dove c'è una parte di titolo di tributo agli Iron Maiden con Seven Songs e una parte invece di tributo legata ai Cavalieri dello Zodiaco. Usiamo la metafora dei Cavalieri dello Zodiaco per spiegare il conflitto Israele-Palestina. E quindi diciamo che il grande sacerdote usurpatore per noi, dal nostro punto di vista, è Israele, che riduce in fin di vita troppe persone che purtroppo non hanno la possibilità di bruciare il cosmo e di tornare in vita. Purtroppo sappiamo perfettamente che cosa sta succedendo. Non voglio bloccarti la diretta usando alcuni termini, però sappiamo che sono quelli gli unici termini da utilizzare per quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. E la prima volta che io ho visto un corpo completamente nero, quando ero bambino, era il corpo di Pegasus dopo che le aveva prese dai Cavalieri Neri. È vero. Oggi quei corpi neri purtroppo sono i corpi dei bimbi della striscia di Gaza. Noi vogliamo in qualche modo sensibilizzare su questo tema o su altri, come abbiamo fatto in altre canzoni, utilizzando un approccio molto user friendly, appunto quello dei manga, degli anime che oggi spopolano, forse ancora di più rispetto a 20 anni fa quando avevamo iniziato. Anzi, 20 anni fa eravamo un po' degli sfigati e degli outsider. Oggi, con l'esplosione della pop culture, chi tratta di quegli argomenti è quasi una superstar, cioè ci sono gli influencer, no, del mondo della pop culture. Quindi abbiamo deciso di ricominciare proprio perché c'è stata questa accettazione sociale della figura del nerd, tra virgolette. E in più perché abbiamo detto, siamo maturati ancora di più, alcune tematiche sociali hanno un peso importante ancora oggi. Noi quando avevamo iniziato avevamo fatto un concept album su un titolo del 94 che era un manga di Kaori Yuki che si chiamava Angel Sanctuary, che parlava molto di identità pre-gender fluid, prima che si usassero tutti questi termini, eccetera. Abbiamo fatto ancora prima delle canzoni sul mental health, che all'epoca non si chiamava mental health, cioè non si parlava di questi temi, però alcuni nostri amici si sono tolti la vita, e quindi il tema della prevenzione al suicidio per noi è sempre stato molto importante e l'abbiamo utilizzato per tanti anni. Torniamo oggi un po' più vecchietti, con però la volontà ancora di parlare ai giovani e magari la possibilità di arrivarci attraverso delle figure per loro user friendly che poi nascondono un tema più importante, secondo me è un buon modo per fare musica oggi. Ci sta, guarda, penso che hai esposto benissimo quello che sei andato a fare. Intanto, infatti, su Instagram qualcuno ha commentato: uguala e quant'altro. Adesso magari se magari puoi scrivere il nome, così ti ringrazio personalmente, nel senso, e complimenti e grazie per aver toccato questo tema sul discorso appunto Israele-Palestina, perché effettivamente anche lì bisogna sempre stare attenti ed usare bene le parole per quello che purtroppo sta succedendo. Rientriamo in diretta, doppia diretta ovviamente come di consueto. 333 180 94 94, se qualcuno volesse mandare un messaggio tramite WhatsApp sul tablet che ho qui davanti, lo può leggere, oppure come qualcuno ha già fatto tranquillamente può scrivere un commento sulla diretta di Instagram che stiamo avendo io e Andrea Rock, di cui abbiamo già iniziato a parlare dei Roscos. Quindi, ma avevi leggermente spoilerato che sarebbe un'evoluzione dei Roscos per quanto riguarda effettivamente un album. È ancora attivo questo discorso di album? Arriverà? Allora, direi di sì, non riusciamo a dare una data perché stiamo prendendo le misure con coloro che dovrebbero aiutarci a pubblicare questo disco, però abbiamo le idee molto chiare, anche perché di base io sono uno che ama programmare le cose un sacco, soprattutto poi da quando sono diventato papà devo stare attentissimo nella gestione dei tempi, e quindi certo. mi sono programmato il prossimo disco dei Roscos, il prossimo disco dei Rebel Poets, gli eventuali live con uno, l'altro, PGA, come portarlo avanti, eccetera eccetera. Devo fare così perché sennò impazzisco. E quindi allora l'idea che avremmo noi per quanto riguarda Roscos è uscire probabilmente nei primi mesi del 2026 con un album completo che raccoglierà quanto abbiamo fatto in questi due anni, quindi i brani legati appunto a Cavaliere dello Zodiaco, Demon Slayer, Proteggi la mia terra, Attack on Titan, e andremo a toccare anche altri titoli ovviamente, sempre ogni canzone con un substrato sociale e un significato neanche troppo nascosto molto importante. Spoiler, se qualcuno poi vuole provare a giocare, uno dei temi sarà il bullismo. Vediamo se qualcuno di quelli che ci segue propone il titolo del manga barra anime di riferimento, se lo beccano. Detto questo, anche perché lì vorremmo fare un lavoro più complesso, coinvolgere un'associazione che si occupa proprio di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo, che è un altro tema terribilmente importante, e quindi cercare appunto una joint venture per rafforzare il messaggio, perché poi a noi interessa che il messaggio arrivi al di là degli stream della canzone. Quindi sicuramente un album ci sarà che raccoglie quanto abbiamo fatto e quanto sicuramente faremo. Quindi poi ovviamente date, vorremmo fare un po' di estero, cosa che non abbiamo fatto in questi anni, anche qui il tempo purtroppo è poco perché siamo quattro papà, e quindi quattro papà hanno quattro responsabilità grosse, quindi cerchiamo di fare le one shot, cioè siamo andati a suonare al Comic Con di Napoli, e il giorno che abbiamo suonato al Comic Con abbiamo suonato anche la sera a Napoli, abbiamo fatto la doppia tipo i Beatles, già che eri lì. Eh sì, per cercare di ottimizzare il più possibile. E faremo una data sicuramente quest'estate in Sardegna, in un festival che si chiama Rock and Beer Valle d'Oria, un festival bellissimo. Non è ancora stato annunciato l'headliner, non posso farlo io, però certo, fidatevi che sarà una bella situazione. E poi appunto da settembre studio per chiudere il disco in tempi corretti. Quindi sì, ci sarà un album, ci sarà da suonare, ci saranno sia i live nei rock club e nei festival, diciamo, legati principalmente alla musica, così come ci saranno anche le presenze però nelle situazioni di pop culture, quindi i festival di cultura pop, eccetera eccetera. Ci piacerebbe, ecco, visto che il disco esce a inizio 2026, chiudere coi live a Lucca 2026, che appunto verso novembre potrebbe avere senso. Vediamo se ce la facciamo e se la nostra proposta poi piacerà. Ci sta, anche perché se non sbaglio l'ultimo Lucca che ci furono i Lordi che suonarono in una delle date, quindi anche lì a vedere questi mostroni che suonano metal, heavy rock, quindi è sempre figo. Quindi magari spero riuscirete anche voi a suonare a chiudere appunto questo progetto che hai portato avanti e chiudere effettivamente Una grande verità, Dani. Dimmi. Io faccio il consulente musica per Lucca da 3 anni, quindi Lordi sono stati una mia proposta. Okay. Lo scorso anno, così come per quest'anno ci sono delle altre proposte. Però non è detto che perché faccio il consulente allora automaticamente suonino i Roscos. No. Assolutamente no. cioè noi dobbiamo fare ci sono delle selezioni, non sono io non sono quello che decide, io sono quello che propone, quindi vediamo. A me piacerebbe, ecco, più che forse realmente suonare, poi se si suona ovviamente è molto più bello, però col fatto che ci sono tutti questi temi sociali molto importanti, mi piacerebbe almeno fare un panel sul disco della band con magari delle testimonianze sui temi che noi andiamo a trattare. Ecco, quello secondo me sarebbe un momento molto formativo, molto di più rispetto al fare musica. La musica c'è, va bene. Suoniamo ad esempio sabato prossimo, siamo a Rock and Roll di Milano con il Bizzogo, quello è uno standard, però quando ci sono dei temi per noi così importanti, allora forse, ecco, l'obiettivo, guarda, te lo dico così in diretta, l'obiettivo forse è fare un panel a Lucca 2026 per parlare di temi che meritano attenzione. Ok, quindi anche questo molto onorevole. Comunque dici, non mi interessa particolarmente, dici, suonare, che poi sarebbe ovviamente bellissimo, però almeno riuscire a avere quel piccolo spazietto per poter esporre quello che andate effettivamente a parlare con i temi sulle canzoni, e poi magari esprimerlo magari in italiano, dove magari certe traduzioni ovviamente qualcuno può effettivamente mancare. Seconda parte di L'Estromo Rock, sono sempre qui collegato con Andrea Rock. Nella prima parte, bene o male, abbiamo parlato benissimo per quanto riguarda questo ritorno dei Roscos, quindi magari ci risentiremo più avanti per effettivamente quando uscirà l'album. Ma in questa seconda parte andremo a parlare per quanto riguarda il progetto PGA, Punk Goes Acoustic, questo progetto collettivo di beneficenza, quindi sostanzialmente questa è la quarta compilation che avete tirato fuori, che hai proposto e quant'altro. Quindi adesso lascio un attimo più la parola a te per andare a spiegare effettivamente che cos'è questo PGA, perché io bene o male so bene o male un po' di cosa si tratta, ma magari qualcuno effettivamente non lo sa, quindi vai e a te la parola. Allora, il collettivo PGA, che sta appunto, come dicevi Dani, per Punk Goes Acoustic, è un collettivo che nasce ufficialmente nel 2010, casualmente, per una serata libera in un locale a Milano che era il Rock and Roll. Davide Mozzanica mi chiama, mi salta il duo acustico, vieni tu a fare dei brani. Dico, guarda che io con chitarra acustica faccio schifo, cioè sono un punk rocker, cioè se non mi metti il gain faccio vomitare. Però mi autoconvinco, dico, vabbè, dai, alla fine della fiera i Social Distortion in acustico funzionano, due robe dei Green Day, qualcosina dei Rancid. Chiamo degli amici e da lì nasce il Punk Goes Acoustic. Cioè nasce questo collettivo di persone che hanno voglia di fare brani punk in acustico. All'epoca non c'era, all'epoca era vietatissimo. Cioè siamo 10 anni prima del Covid, quindi cioè non esisteva il punk in acustico. Tant'è che non mancarono le critiche, no, a questo progetto. C'erano delle compilation della Fearless Records in America che proponevano questa roba, ma erano band che facevano materiale loro in acustico, ok? Mentre noi abbiamo deciso di fare solo esclusivamente cover, ok? Però di band punk. Detto questo, dopo le prime serate si crea un movimento di persone. Non ha minimamente senso chiedere un cachet perché siamo in troppi. Scegliamo un'associazione alla quale devolvere parte degli incassi della serata o i totali incassi della serata. Scegliamo di devolvere il 100% di quello che ci riguarda. Motivo per il quale tutte le volte che abbiamo anche performato dal vivo, tutte le spese erano a carico nostro, in modo tale che chi organizzava l'evento poteva massificare la sua donazione all'associazione. L'associazione che noi aiutiamo è un'associazione di onlus di Como, della provincia di Como, che si chiama L'Isola che non c'è, che fornisce corsi di musica, teatro, danza, sostegno psicologico a ragazzi con disabilità, li fa interagire con il mondo del lavoro, propone l'integrazione tout court appunto per questi ragazzi, che noi nel 2016 abbiamo portato per la prima volta in uno studio di registrazione professionale a registrare la loro versione di Blizz It Pop dei Ramones, che hanno risuonato e riarrangiato loro, si chiama Mabo non so, e questo era stato fondamentalmente il punto con il quale noi avevamo messo in pausa il progetto. Il progetto si chiamava Punkability, quindi c'è stato, grazie a Rude Records, una terza compilation con anche questo documentario che adesso è stato reso totalmente gratuito e visibile proprio su YouTube. Cercate Punkability e trovate questa bellissima esperienza, questa bellissima storia. Nel 2020 scoppia il punk in acustico, perché tutte le band, ovviamente, distanza sociale, A, B, C, D, E, e quindi tu ti trovi anche le band più oltranziste in Abat, i Bull Brigade, The Rodder, Pancreas, eccetera, fanno gli show in acustico. E quindi automaticamente, cioè, avevamo ragione noi, alziamo la mano e diciamo: scusate, ma quando lo facevamo noi ci insultavate. Non andava bene. No, dai, niente, alla fine della fiera si è capito che non si perde minimamente di intensità nel fare la cosa. In più, secondo me, farlo come lo facciamo noi, cioè non a scopo di lucro ma per benefit, è ancora meglio. E quindi abbiamo deciso di riunire la vecchia compagine e fare una quarta compilation. Ci sono tanti nomi nuovi di ragazzi che non avevano mai partecipato alle precedenti, c'è chi aveva partecipato magari a dei live ma non era riuscito a consegnarci il brano, e c'è una piccola sorpresa, perché causa errore tecnico mio c'è una band che ci aveva consegnato un brano ed è rimasta fuori, ma quando annunceremo gli eventi che faremo dal vivo regaleremo anche il brano di questa band a fare da traino a questa comunicazione, perché vogliamo fare due eventi dal vivo, vorremmo farlo nei teatri, ma vogliamo trovare dei teatri che non siano troppo restrittivi dal punto di vista delle economie, perché se dobbiamo spendere un sacco di soldi per entrare in un teatro e suonare, come facciamo a devolvere all'associazione? Quindi siamo aperti a tutto. Se avete dei teatri magari in zona Bologna, Milano, Roma, che potrebbero essere le tre città che vorremmo considerare, fatecelo sapere, scrivete alla pagina, scrivete a me, scrivete a qualche band del progetto, e cerchiamo di andare lì, fare il nostro concerto, massimizzare le donazioni e fare qualcosa di buono con il punk rock. Bellissimo, guarda, penso introduzione più che ottima, ovviamente, da parte tua, per andare a spiegare tutto un po' il progetto, come è nato del punk rock acoustic. E rientriamo a parlare sempre con Andrea Rock per quanto riguarda il PGA. Piccolo spoiler per quanto riguarda l'onda della diretta di Instagram, quindi te lo chiedo direttamente, dato che abbiamo un attimo iniziato a parlare, per quanto riguarda, appunto, te l'avrei comunque chiesto per quanto riguarda una versione fisica, magari sia di questa compilation, che magari riprendere a mano anche le altre e metterle effettivamente su versione fisica, che possa essere CD, vinile o cassetta per i vecchi old school. Allora, ci piacerebbe. Le prime tre compilation hanno avuto un formato fisico, sono andate sold out, per fortuna. Adesso vorremmo ragionare con i ragazzi di Root Records, che sono storicamente i nostri partner dal primo disco, con una versione in vinile, perché Root Records ha fatto nella sua lungimirante carriera un vinile ecosostenibile, quindi con un coinvolgimento praticamente pari a zero di materiale plastico. Quindi anche da questo punto di vista, se si riuscisse a unire le due cose, quindi il progetto e benefit, il materiale sul quale andiamo a produrre il supporto fisico è, diciamo, a impatto quasi zero a livello ambientale, allora ci sentiremmo ancora più a posto con la coscienza. È chiaro che quel processo magari ha un costo leggermente elevato, ma sappiamo che col fatto che tutto ciò che noi veramente andiamo a capitalizzare va direttamente in toto al 100% all'associazione, se troverete, appena avremo i tempi per poter produrre questo disco, il disco fuori il nostro banchetto, e direte: ah, ma pensavo costasse 5 euro in meno, fate lo sforzo di 5 euro in più, sappiate che è per una buona causa. Giusto. Io non pensavo che anche le edizioni vecchie fossero andate sold out, quindi un po' mi dispiace perché non ne ho manco una, quindi proviamo a recuperarne qualcuno. Vediamo di recuperarne. Quindi buono anche questo proposito per quanto riguarda, appunto, oppala, eccoli. Sì, sì, ce l'ha qua, sì, guarda. Ce n'è una anche in cellofannata, guarda. Questa era la terza, ok. Bankability. Questa era la seconda, Stay Together for the Kids. Ok. E questa era la prima, quella Pangos Acoustic. Sì. Ok, mannaggia, va bene. Adesso della mia collezione privata. Certo, giustamente. Quindi abbiamo un attimo iniziato a parlare anche di questo. Io ti vado a chiedere semplicemente anche come mai la scelta di The Kids Aren't Alright, che è principalmente la canzone degli Offspring, però a quanto pare giustamente si va a sposare bene anche per quello che va a per il benefit, giusto? Sì, ci piaceva il fatto che ci fosse la parola kids dentro, nel senso che la prima, come hai visto, era semplicemente PGA, Pangos Acoustic, ci dovevamo presentare. La seconda, il brano dei Blink, Stay Together for the Kids. La terza, prima che uscisse in formato fisico con Punkability, che era quel progetto importante di cui ti parlavo prima, si chiamava If the Kids Are United, no? Il brano di Sham 69, eccetera. E quindi anche qui volevamo utilizzare la parola kids. Sappiamo perfettamente che il brano degli Offspring, The Kids Aren't Alright, ha un senso, una tematica completamente diversa, per nulla positiva, però ci serviva la parola kids. Quindi... quante ne sono rimaste di canzoni punk con la parola kid dentro? Me ne vengono in mente un paio, vediamo se le utilizzeremo le prossime volte. Sì, esatto. Penso ce ne sia qualcuno anche degli Strung Out, probabilmente, però anche lì si vanno un po' nel... Me vengono in mente gli Adolescents, addirittura. Sì, vediamo. Sicuro. Ma i Green Day non hanno fatto una canzone con Kids? Penso strano. Cioè, X-Kid... forse adesso non mi viene in mente, però dice, mi fa strano che non li abbiano tirati fuori. Vabbè, comunque vedremo esatto, vediamo poi nella... se fosse X-Kid dei Green Day dovrebbe essere la decima compilation con X che sta per 10, esatto, quindi lì se ne parla però tra un pochettino di anni, perché tra un pochettino. Continuiamo in questa seconda parte a parlare con Andrea Rock per quanto riguarda il progetto PGA. Ho visto che l'altra cosa molto interessante è che sei riuscito a mettere dentro tipo 23 canzoni, quindi non si vedeva dai tempi di Pancorama sostanzialmente questo ammasso di band, passami il termine, tutte concentrate in una compilation sola, quindi un po' per riuscire a dare spazio a tante realtà. E cosa hai dovuto tenere, qual è stato, magari è brutto per dirlo, qual è stato un po' il criterio per dire butto dentro questa piuttosto che quell'altra? C'è già stato uno, quindi dici do spazio a chi altri, oppure domanda un po' scomoda? Ma allora, in realtà il bello di questo progetto è che è aperto a tutti, cioè quando noi abbiamo iniziato il recruiting delle band per questa quarta compilation, grazie soprattutto ai amici di Banca Deca che hanno fatto un articolo un anno prima che uscisse il disco dando le date di consegna, ci eravamo sentiti proprio io e Deca, io gli avevo mandato due info, quindi lui aveva detto nell'articolo quali erano le specifiche, doveva essere una cover di un brano punk di qualsiasi lingua, genere, periodo, eccetera. Doveva essere in acustico, doveva essere consegnato a me entro questa data. E quindi niente, io ho accettato tutti. Cioè tutti quelli che per quella data mi hanno consegnato i brani sono stati ovviamente benvenuti. Poi c'è qualcuno che ho dovuto un po' svegliare io, quindi andare a punzecchiare mandando dei messaggi, mentre il resto è stato molto organico. E appunto noi non facciamo nessun tipo di distinzione, quindi anche coloro che sono all'ascolto, se un domani quando vedono che annunciamo la quinta compilation vogliono esserci con un brano, si consegnate il brano mixato, non masterizzato, poi masterizzo io nel mio studio con Gianluca Veronal e Attitude Studio, e poi di base si esce, cioè veramente non c'è limite, perché stai facendo un qualcosa per beneficenza, quindi io non potrò mai dirti tu sì tu no, cioè certo. L'esclusività va contro la nostra filosofia, quindi anche se hai imparato a suonare la chitarra da 2 settimane ma sta in piedi una canzone, sei benvenuto, caspita, assolutamente. Più che giusto, infatti era quello il discorso che ovviamente non volevo mettere un discorso, ho dovuto mettere, è giusto per capire un attimo come è andato il processo per andare a formare questa nuova compilation. Tra l'altro ci sono un sacco di artisti che sono entrati dentro che effettivamente non conoscevo e non conosco, quindi tipo la band che poi andremo a chiudere la puntata, che è Campa, adesso bravissimo lui, bravissimo. Non so chi non lo sia. Non lo conoscevo nemmeno io, mi ha contattato tramite web. Ok, ah ok, bella, quindi è quelle amicizie di... Bravissimo. Di tecnologiche, per modo di dire, no? No, quindi sì. Buono a sapersi. Quindi una quinta, vabbè, adesso ovviamente per parlare di una quinta stagione di una quinta compilation è molto presto, quindi adesso si godrà questa nuova compilation, aspettando appunto che di riuscire a portarla, appunto, come dicevi tu, nei vari teatri e quant'altro. Quindi molto, molto interessante, molto interessante. Sì, i next step sono proprio quelli, cioè trovare le tempistiche per realizzare il disco fisico a impatto zero. Una volta che c'è il disco fisico, fare le date. E poi da lì chiudiamo questo capitolo e poi apriamo già il recruiting per la quinta. Quindi per chi vuole esserci, chi vuole consegnarci dei brani, eccetera, eccetera, faremo, credo, sempre degli annunci tramite le nostre pagine e con appunto alcuni siti partner, chi vorrà parlarne. Grazie già da adesso, e pian pianino si continua, perché ripeto, va avanti, passa il tempo, ma lo spirito continua, diceva qualcuno, no? Dice bravissimo, bravissimo, esatto, qualcuno di poco famoso, per modo di dire. Come dicevo, sono praticamente gli sgoccioli di Lestromo Rock. Io comincio un attimo con i saluti, con i ringraziamenti, perché sennò non mi trovo alla fine a correre sempre dietro a queste cose. Quindi, come sempre, ti ringrazio di disponibilità di essere stato qui in questa oretta con me a parlare dei due progetti Roscos e PGA. E come dico sempre, speriamo di vederci anche in altre occasioni per fare due chiacchiere, come spesso capita. Quindi ti ringrazio di nuovo, come sempre. Io ringrazio te, perché ripeto, è molto difficile ancora oggi trovare spazio per poter parlare in maniera approfondita di quello che c'è dietro magari a una band, a un progetto, soprattutto se c'è del benefit dietro. Bisogna essere molto chiari, perché sennò è un attimo che la gente malinterpreta. Quindi grazie come sempre per questo spazio. La Stormo Clock è assolutamente uno spazio fondamentale e nutriente per tutta la musica emergente. Gentilissimo, non potevano esserci parole migliori, perché come ti ripeto, mi fa un sacco piacere comunque dare spazio, come dici tu, a tutte le varie realtà che bene o male ci sono in generale. Intanto ti saluta Simone con un braccione gigantesco ad Andrea. E io, come vado a chiudere bene o male la puntata con la domanda scarica barile, come quella iniziale che bene o male adesso spostato con il discorso dei Foo Fighters e Josh Fries, quella finale va semplicemente a dirti, vado semplicemente a chiederti: c'è qualcosa che non ti ho chiesto che vorresti dire? Devo dire che hai toccato veramente tutti gli ambiti, tranne quello sportivo, che non è ovviamente quella il core business di Let's Talk More Rock. Però è stato un anno molto difficile per i Boston Celtics. I New York Knicks posso semplicemente festeggiare di averci battuto, e viva gli Pacers. Ok, questo magari detto tra i denti, perché magari speravi andassi in un altro modo, però bene o male seguendoti vedo la passione che hai per i Boston, e quindi prossimo anno, magari prossima volta, per modo di dire. Certamente. No, va bene. E come dicevo, sono effettivamente arrivato agli sgoccioli di Lestromo Rock, così io vado effettivamente a salutarti, a ringraziarti nuovamente per la disponibilità di aver passato questa ora con me, e ci vediamo alla prossima e buona serata. Ciao a tutti, grazie Dani, un abbraccio grande. Grazie, alla prossima, arrivo. E come di consueto, a conclusione di Lestromo Rock, buon punk rock a tutti.